Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 24 febbraio 2015. L'Expo rilancia l'immagine turistica dell'Italia. L'Expo 2015, che aprirà ufficialmente il 1 maggio, sta contribuendo a rafforzare l'immagine turistica dell'Italia e a rinnovare il modello di accoglienza del nostro paese. La ricettività diffusa, prevista dall'accordo tra Regione Lombardia e la Camera di Commercio di Milano, così come la regia dell'Ente Nazionale del Turismo, hanno infatti permesso di allargare la disponibilità di offerta turistica su un'area più vasta. L'Italia intende sfruttare l'opportunità dell'esposizione universale come occasione di rilancio del turismo nel paese, un'opportunità che sta attirando l'attenzione dei turisti e anche l'offerta culturale, dal Fuori Expo all'apertura estiva della Scala di Milano per una stagione straordinaria. Fin qui la notizia del 24 febbraio 2015, ma come sapete il futuro ha radici nel presente, in questo 2012. Le linee della strategia turistica nazionale in vista dell'esposizione di Milano sono state infatti presentate nei giorni scorsi alla BIT. Per il vicepresidente della Commissione europea Antonio Tajani si tratta di un'opportunità da sfruttare al meglio, come sta facendo Londra con l'evento olimpico. Sentiamo Tajani al microfono di Valentina Forlanetto. L'Expo come volano per il turismo, non solo a Milano ovviamente e non solo in Italia. Ma assolutamente sì, grandi eventi come l'Expo e come le Olimpiadi di Londra rappresentano una cartina di tornasole che può attirare milioni di persone, non soltanto che abbiano come obiettivo il business o lo sport, ma possano avere anche come obiettivo quello di conoscere non soltanto il luogo dove si svolge l'evento, ma anche il resto del paese dove questo si svolge, ma anche altri paesi dell'Unione Europea. Quindi noi stiamo lavorando per valorizzare l'importanza di questi due grandi eventi che fanno parte appunto della nostra strategia dell'Unione per far sì che l'Europa rimanga e diventi sempre più primo obiettivo dei turisti nel mondo. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anna Rita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.